La speranza è l'ultima a morire, ma per 18 secondi, che oggi magari diminuiranno ancora, Di Luca vede svanire il sogno della maglia rosa. Curioso questo giro, pur essendo sbilenco, con salite che finiscono sul più bello, riesce comunque a mantenere una surreale suspense fino al Colosseo. Il problema per Di Luca è che il russo, che ormai lo segue anche in bagno, può correre tranquillo. La cronometro dei fori imperiali, che conclude domani il giro, è infatti la morte sua. Menchov è uno specialista, Di Luca no, e rischia di perdere più di un minuto, un handicap troppo pesante. Comunque, tanto di cappello a questo abruzzese, testardo come un mulo e combattivo fino all'ultimo respiro. Non sarà stato lucido come il russo, ma ogni botte dà il vino che ha. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.